GR24, il sole 24 ore. Legge di stabilità nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, la CGIL avverte senza risposte, sarà sciopero generale. Berlusconi, il leader dei moderati, non escludo che sia Monti. Il Nobel per la fisica a Serge Roche e David Vindeland per gli studi sulle particelle quantistiche. Una buona giornata dalla redazione da Anarita D'Ambrosio, lo avete sentito nei titoli, tra poco parleremo di Berlusconi che ha annunciato non si ricandida, confermando quanto anticipato ieri D'Alfano. Subito però andiamo ad Atene, dove è atterrata da poco la cancelliera Angela Merkel. Grazie a Vittorio Darolde che è in collegamento con noi. Vittorio. Sì, esattamente, la visita lampo del cancelliere tedesco Angela Merkel è iniziata, durerà 6 ore appena, ha incontrato il premier Antonin Samaras. Sul tavolo c'è naturalmente la volontà della Merkel di ribadire che la Grecia dovrà restare nell'euro, ma il cancelliere tedesco è molto poco popolare nel paese perché è accusata di essere stata troppo cauta all'inizio della crisi e troppo severa con le politiche di rigore dopo. E quindi è una scommessa politica molto forte quella che la Merkel sta giocando quest'oggi, e parla non solo ai greci ma ai tedeschi, che in qualche modo soprattutto vuole convincere i falchi tedeschi presenti anche nella sua coalizione di governo, che la scelta di far restare Atene nell'euro è nel vantaggio, è un vantaggio, è nella tedesco che, come sapete, esporta alla Germania il 60% dei suoi prodotti nella UE. Grazie Vittorio Darold. Dunque staremo a vedere, intanto Atene è già blindata, sono 2 i cortei che sono stati autorizzati nel centro città, ci sono stati anche degli arresti prima dell'arrivo della cancelliera tedesca, 3 persone sono state arrestate e 36 fermate. E della situazione in Grecia, chiedendo alla Grecia di fare di più, aveva parlato questa mattina anche il presidente BCE Draghi all'Europarlamento. Sul futuro dell'Eurozona restano rischi, ma ci sono anche motivi di fiducia. Lo ha detto il presidente della BCE, Mario Draghi, nel suo intervento all'Europarlamento. L'economia europea e il suo sistema finanziario continuano a trovarsi di fronte a tempi impegnativi, ma, ha sottolineato Draghi, ci sono anche ragioni per avere fiducia. Il programma di acquisto di bond della BCE fornisce all'Eurozona una rete di protezione pienamente efficace per evitare scenari distruttivi. Draghi ha anche sottolineato che per una ripresa economica serve rivitalizzare l'erogazione di credito. A questo proposito il governatore ha detto che è molto importante che entri in vigore, come previsto, il 1 gennaio 2013 il meccanismo unico di supervisione bancaria europea. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore. E c'è un'ultima ora. L'Italia ha detto sì alla cooperazione rafforzata sul Tobin Tax in Europa. 11 i paesi che hanno aderito e la tassa dunque potrà diventare realtà. Lo ha annunciato il commissario europeo Semeta al dibattito all'Ecofin. I paesi che si sono aggiunti oggi agli 8 già sicuri sono appunto l'Italia, ma anche la Spagna e la Slovacchia. E noi siamo alla pagina della politica interna, che si apre con Berlusconi, che è tornato a parlare ed ha sciolto la riserva. Non si ricandida. Partiamo da qui con la nostra Elisabetta Fiorito in diretta. Elisabetta. Sì, una manovra che era già stata preannunciata nei giorni scorsi e già che si paventava nei mesi scorsi. Silvio Berlusconi non si ricandida, almeno lo promette, ed è possibilista anche sul Monti Bis. La mossa è quella per superare i veti moderati, nei suoi confronti, ma sentiamo cosa ha detto il Cavaliere a Mattino 5. Vogliamo fare qualcosa di importante per unire tutti i moderati italiani, quindi se i leader di questi moderati sentono nei confronti di Silvio Berlusconi un sentimento tale per cui ritengono che non li possa rappresentare, Silvio Berlusconi da sempre ha affermato e continua ad affermare che è disponibile a fare un passo indietro per consentire che tutti i moderati si ritrovino insieme. E sulla candidatura di Monti a Palazzo Chigi Berlusconi risponde così. Assolutamente non escludo che possa essere Mario Monti, il quale, da come lo conoscevo io, è sempre stato nel campo dei liberali, e quindi potrebbe essere tranquillamente Mario Monti, ma ci possono anche essere altri nomi importanti. Berlusconi replica anche a Casini: mai fatto giravolte in vita mia, in futuro potrà occuparsi della formazione dei giovani, dice il Cavaliere. Una mossa, quella della candidatura di Monti a Palazzo Chigi, che segue quella dei centristi. Sembra quindi che l'unico modo per evitare la debacle del centrodestra alle elezioni sia appunto candidare il professore. Per il momento qui da Roma è tutto per studio. Il punto di Stefano Folli. Se il passo indietro di Berlusconi vuole essere una cosa seria e non il solito gioco di prestigio tattico, occorrono due condizioni: che sia davvero un ritiro dalla scena politica, perché la riorganizzazione dell'area moderata, che è una questione seria, non può avvenire solo con Casini e magari con l'ex premier che dietro le quinte tira i fili. Secondo, che conduca a un riconoscimento di Mario Monti come il leader naturale oggi di questa vasta area che si vuole riunificare, con un chiaro riferimento al Partito Popolare Europeo e alle sue posizioni, il che comporta di accettare con convinzione una linea europeista, certo arricchita di contenuti politici ed economici, ma di qui non si scappa, a meno di non voler solo aggiungere confusione a confusione. Ed i riflettori nel pomeriggio sono puntati sul Consiglio dei Ministri, che si riunisce per discutere della legge di stabilità. Il Premier Monti proprio in questo momento la sta illustrando al Quirinale. È arrivato intanto oggi un avvertimento dalla leader della CGIL, Susanna Camusso. È un pacchetto di interventi da quasi 10 miliardi di euro, quello previsto dalla legge di stabilità, che oggi pomeriggio sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. 6 miliardi e mezzo serviranno per scongiurare l'aumento di 2 punti dell'IVA in programma a luglio. Altri 3 miliardi e mezzo andranno invece a finanziare spese ritenute non rinviabili, come quelle per il terremoto in Emilia e forse anche per i nuovi sgravi per il salario di produttività. Tutte risorse che arriveranno da nuovi tagli alla spesa pubblica individuati con la spending review. Fra gli interventi previsti c'è la conferma del blocco dei contratti pubblici, compresi gli aumenti per il recupero dell'inflazione, una nuova stretta sui fondi destinati alla sanità e poi una riduzione degli stipendi di magistrati e diplomatici e anche il divieto di acquisto di auto blu e immobili. Anche i fondi per le regioni saranno ridotti di altri 2 miliardi. Nuovi tagli che, oltre ad aver già alimentato qualche malumore nel governo, preoccupano locali e parti sociali che oggi saranno a Palazzo Chigi prima del Consiglio dei Ministri. Se nella legge di stabilità non ci saranno risposte sul reddito e lavoro, andremo avanti con la mobilitazione fino allo sciopero generale, ha avvertito stamattina la leader della CGIL Camusso. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E le parole della Camusso sono arrivate durante la manifestazione che è in corso di svolgimento degli esodati dinanzi a Montecitorio. Parliamo dunque di pensioni e del tema esodati. È alta la tensione sul capitolo esodati. Migliaia di loro oggi protestano davanti a Montecitorio in un presidio organizzato da CGIL, CISL e UIL, mentre scontro tra governo e maggioranza dopo la nuova proposta bipartisan, il DDL Damiano condiviso da PD, PDL, UDC e opposizioni, che introduce una serie di scalini per permettere ai lavoratori di 58 anni di andare in pensione con 35 anni di contributi fino al 2017. Una iniziativa dunque che allargherebbe la platea degli esodati da salvaguardare e che, secondo il ministro del Welfare Fornero, punterebbe a smontare la riforma previdenziale approvata dal governo. Altro nodo, quello della copertura finanziaria, perché stando ai conti della Camera questo DDL costerebbe 5 miliardi di euro. Ma secondo il vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, Giuliano Cazzola, del PDL, si tratterebbe di 30 miliardi, cifra ben più alta. E intanto a sostegno del governo arriva il Fondo Monetario Internazionale, che difende la riforma delle pensioni italiana, definendola il miglior sistema nell'arco dei prossimi 20 anni sullo sviluppo della spesa pensionistica e dell'healthcare. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Intanto arrivano dati che ancora preoccupano. Crolla il potere d'acquisto delle famiglie. Tenuto conto dell'inflazione, nel secondo trimestre 2012 si è ridotto all'1,6% rispetto al precedente e del 4,1% rispetto al secondo trimestre del 2011. Il calo tendenziale è il più marcato dal 2000. L'Istat indica inoltre che la propensione al risparmio è stata pari all'8,1% con una diminuzione di 0,6 punti rispetto al trimestre precedente e di 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Conferma per il PIL nel secondo trimestre meno 0,8%, meno 2,6 nell'anno. La cronaca con una notizia di poco fa. La prima corte d'assise d'appello di Roma ha confermato la condanna a 16 anni per Winston Manuel Reyes, accusato dell'omicidio, lo ricorderete, della contessa Alberica Filo della Torre. Sono Philippe Mexès, Mirko Vucinic, Matteo Ferrari e Carlo Zotti gli ex calciatori della Roma, vittime di una truffa milionaria nella capitale per la quale è stato arrestato un romano di 43 anni con precedenti. L'uomo raggirava i clienti commerciando delle auto che non erano in contovendita ma concesse in locazione da una società di noleggio a cui non venivano però mai restituite. Ci spostiamo a Milano dove tornano le tangenti, questo è il tema di Italia in Controluce che andrà in onda in diretta dopo questa edizione. Parliamo dell'inchiesta di ieri nei confronti di un funzionario del Comune di Milano e del segretario dell'Unione Cechi. A far scattare le indagini un appalto anomalo da 30 milioni di euro, appalto che fu immediatamente cancellato dalla giunta Pisapia una volta insediatasi. Come racconta Maria Grazia Guida, vice sindaco e assessore all'educazione del Comune di Milano, al microfono di Cristina Carpinelli. Pinelli. Dalle prime verifiche noi siamo arrivati a giugno del 2011, già a fine giugno, inizio luglio avevamo sentore che su alcuni atti le cose non erano completamente chiare, quindi abbiamo fatto un po' due cose. La prima è stata rinnovare completamente quella che era la struttura, diciamo, di responsabilità dirigenziale, la seconda è di andare a fondo nel capire e comprendere i fenomeni che ci trovavamo davanti e che ci risultavano poco chiari e poco comprensibili. Ascolteremo l'integrale dell'intervista all'assessore Guida e approfondiremo dunque il tema del ritorno delle tangenti a Milano e in Italia in controluce. Subito dopo questo GR però c'è l'appuntamento con il nostro GR Spettacoli. GR Spettacoli, accanto a me c'è Marta Cagnola, che sarà dedicato a questo boom di ascolti, no? Ieri per Celentano. Marta, ce lo potevamo aspettare? Ce lo potevamo aspettare, ovviamente ne parleremo anche tra poco nel giornale radio, almeno nell'apertura del giornale radio, perché poi parleremo anche molto di musica, perché il martedì è giorno di nuove uscite musicali, ma concentriamoci su Celentano. In questo caso, insomma, la mattina gli spettacoli sono fatti di numeri, ormai gli ascoltatori sono abituati. Allora, la prima parte di Rock Economy ha avuto 9.527.000 spettatori, 29,82%, la seconda 9.159.000 con il 30,82%, la terza 8.509.000 con il 34,49%. La media fa 8.918.000 telespettatori con il 31,80% di share. Si parla quindi del miglior risultato di prime time degli ultimi 5 anni per Canale 5, considerando tutti i generi televisivi. Ed è un'ottima notizia per un'azienda che puntava molto su questo grande evento per gli ascolti della stagione. Insomma, gli eventi sono sempre più importanti. Marta, questo è un evento che stasera replica e poi staremo a vedere domani come andrà, ma mentre andava in onda ieri Celentano, nelle altre reti cosa succedeva? Interessante perché tutti diranno, vabbè, a questo punto tutti stavano guardando Celentano, un televisore su tre, e cosa è successo in particolare su Rai 1 e su Rai 3? Allora, su Rai 1 c'era la seconda puntata della miniserie Ne contene senza te, che era andata in onda la sera prima, 16:39 ha fatto contro il 17:37 del giorno prima, quindi comunque la fedeltà è stata molto alta. La seconda puntata di Che tempo che fa del lunedì, quello di Fazio, c'era Renzi ieri sera, ha ottenuto poco meno di 3 milioni di telespettatori, 9,68%. Lunedì scorso ha fatto il 10,01%, quindi non c'è moltissima differenza, ma soprattutto se si fanno i conti in valori assoluti ha avuto 62.107 spettatori in più. Quindi ci saranno stati più televisori sintonizzati ieri sera? Insomma, facendo conti veloci direi di sì, però insomma ci analizziamo un po' i dati e scopriremo la verità. Grazie alla nostra Marta Cagnola, che ritroveremo nel GR Spettacoli alla termine di questa edizione di GR 24, edizione che si chiude con una notizia che potevamo prevedere, lo abbiamo detto in apertura: Angela Merkel è ad Atene e scontri si registrano nel centro città, dove sono in corso due manifestazioni autorizzate. Torniamo ad Atene, dove, come era prevedibile, mentre è in corso l'incontro tra il governo governo greco e Angela Merkel sono in corso in città degli scontri che si registrano dinanzi ad un ospedale che si trova davanti all'ambasciata americana nella capitale greca. La polizia ha lanciato lacrimogeni per impedire questo corteo spontaneo dei dipendenti dell'ospedale che volevano manifestare contro la visita. Questi dipendenti non ricevono un salario da 8 mesi e hanno lanciato delle bottiglie contro gli agenti. Dunque la tensione ad Atene è altissima, lo ricordiamo, è in corso la visita di Angela Merkel che, come abbiamo detto, durerà poco, non durerà più di 6 ore. Noi parliamo adesso del Nobel per la fisica che è stato assegnato stamattina. Professor Serge Arosh och professor David J. Vineland. Il francese Serge Arosh, 68 anni, e l'americano David Vineland, coetaneo. A loro è stato assegnato il Nobel per la fisica. Per le loro ricerche sulle interazioni tra fisica e materia, la Commissione ha sottolineato nelle motivazioni come gli studiosi abbiano aperto con le loro scoperte le porte ad una nuova era di sperimentazione con la fisica quantistica, dimostrando l'osservazione diretta delle singole particelle quantistiche senza distruggerle. Delusione per i ricercatori italiani Fabiola Gianotti e Guido Tonelli, che hanno partecipato alla ricerca del CERN che ha provato l'esistenza del bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio, tra i favoriti per il premio di quest'anno. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il sindaco di Piombino, Gianni Anselmi, è da qualche ora sul tetto delle acciaierie ex Lucchini per richiamare l'attenzione sulla situazione di difficoltà dell'azienda. Con lui si trovano alcuni sindacalisti. E parliamo dell'Ilva, ancora rassicurazione del ministro Clini mentre partono le assemblee in fabbrica organizzate da FIM e Wilm. Le posizioni con la FIOM restano distanti e dopo l'ordine della Procura di Taranto che ha chiesto all'Ilva di avviare entro 5 giorni un programma di spegnimento dell'altoforno 5, come sapete c'è allarme anche negli stabilimenti dell'azienda in Liguria. Sentiamo allora Claudio Nicolini, che è segretario della FIM di Genova, che annuncia uno sciopero proprio insieme alla Wilm. Ora noi, Genova, siamo praticamente ormai un po' impotenti e dipendenti soprattutto da Taranto. Lo sciopero di domani, come FIM e Wilm, manca la presenza della FIOM, non sono contro qualcuno o contro qualcosa, ma sono per il lavoro e per mantenere la siderurgia in Italia. Gli scioperi sono preventivi. Non parteciperà invece la FIOM il segretario Francesco Grondona. Il presidente Ferranti dichiara che loro hanno presentato un piano per lo spegnimento della F5 che secondo l'azienda però avviene nel 2015, fra 2 anni. La magistratura a questo fatto non ha ancora risposto, l'AIA che dovrebbe uscire oggi o domani addirittura. Quindi in questo quadro generale la FIOM ha deciso di tenere il cuore caldo ma la mente fredda. Dunque, situazione dell'Ilva tutt'altro che risolta. Noi torniamo ad Atene in chiusura. Alcuni manifestanti greci hanno lanciato bottiglie di plastica contro il convoglio che sta portando Angela Merkel ad Atene, atterrata all'aeroporto poco fa. Dunque la tensione è alta, come purtroppo si temeva. Seguiremo nel corso delle prossime edizioni per l'intera giornata questa importantissima visita di Angela Merkel ad Atene. Intanto per questa edizione di GR24 condotta e curata da Anna Rita D'Ambrosio è davvero tutto. Grazie regia a Roberto Scaltritti. Vi lasciamo al GR Spettacoli e poi ad Italia in controluce. La prossima edizione di GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola e benvenuti alla seconda edizione del GR Spettacoli. In apertura parliamo di Adriano Celentano. Chi pensa che il mondo, le voci intorno a me. Boom di ascolti per Rock Economy, lo show evento trasmesso ieri da Canale 5 in diretta dall'Arena di Verona. La media di ascolto delle tre parti è stata pari a 8.918.000 telespettatori con il 31,80% di share. Canale 5 ha messo così a segno il miglior risultato di prime time degli ultimi 5 anni. Per gli altri canali nessun brusco calo per la seconda e ultima parte della miniserie, né Con te né senza te su Rai 1, 16,39% contro il 17,37% del giorno prima. La seconda puntata di Che tempo che fa del lunedì ha ottenuto poco meno di 3 milioni di telespettatori per uno share del 9,68%. Lunedì scorso erano stati 2 milioni 800 mila per il 10,01%. Per il bene della Scala spero che decidano presto il mio successore. Così oggi sulla stampa il sovrintendente uscente Stéphane Lissner. Spero che scelgano con un anticipo di 2 o 3 anni, come del resto succede in tutto il mondo, ma purtroppo non in Italia. Però la Scala merita di essere trattata da quel grande teatro internazionale che è. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Torna con un nuovo album Niccolò Fabi, un album ricco con un titolo semplicissimo. Ecco. In tutte le canzoni che sono in questo disco non c'è un motivo che le unisca particolare, se non il fatto che esistono. Ecco. Poi nella mia storia personale, nella mia vita, sia una gratificazione molto grande che addirittura sia stato al 7° disco pubblicato, e facendo un piccolo salto indietro nel tempo, quando suonavo la batteria in cantina non credo che fosse così facilmente prevedibile un successo di questo tipo, ma successo inteso in questo senso, cioè che comunque io faccio ancora il musicista e non mi debba cercare un secondo lavoro. Ecco, poi tutto il resto arriva in seconda battuta. Creo in ti sin cegarme ni ponerte exclamación. Como en el buen humor, creo en ti. Intanto a Milano ha presentato il suo nuovo Papi 2, Miguel Bosé. È bellissimo perché in un altro portare, aggiornare o portare ad oggi le cose che si perdono, sono state perse nel tempo mantenute nel tempo, è un esercizio fantastico. Prima per scoprire che quello che è stato tuo rimarrà sempre tuo. Per sapere, per confermare che quei pezzi che sono passati alla storia, che la gente ha fatto passare alla storia, sono dei pezzi grandiosi, sempre, e che possono essere perfettamente trasportati nel tempo e essere riproposti per una nuova generazione o delle nuove generazioni come pezzi nuovi che loro ovviamente non conoscono, è come se fossero pezzi scritti ieri. Allora sono delle. E poi il piacere di ritrovarsi a fare queste cose con degli amici e festeggiare, non si può chiedere di più. E per il GR Spettacoli è tutto da Marta Cagnola. Ancora l'augurio di una buona giornata.